Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 3 dicembre è stato presentato alla Borsa Italiana l'ultimo rapporto Climate Change Report di CDP, che in Italia viene realizzato in collaborazione con Accenture e l'istituto IMQ. CDP è un'organizzazione internazionale che raccoglie informazioni per conto di 722 investitori istituzionali con più di 87.000 miliardi di dollari in asset, i quali utilizzano queste informazioni come parte delle loro analisi di strategie e investimento. Parliamo di un'analisi che è condotta in più di 70 paesi per identificare che cosa? Il livello di impegno delle più importanti aziende a ridurre il proprio impatto ambientale. Valutazione che avviene basandosi su dei parametri che sono comuni in tutto il mondo. Anzitutto il rapporto valuta la trasparenza e la completezza delle informazioni che le imprese mettono a disposizione degli investitori proprio in merito al loro impatto ambientale. E in seconda battuta valuta quali azioni queste imprese stanno facendo per ridurlo e anche con quali risultati. Di tutto questo parliamo con Diana Guzman, che è direttrice Southern Europe di CDP. Buonasera Guzman. Buonasera Maurizio. Buonasera. Allora Diana, prima di tutto ricordiamo quali sono i risultati principali usciti da questo rapporto che avete presentato alla Borsa di Milano. Voi avete interrogato le prime 100 imprese italiane per capitalizzazione. Quante hanno risposto e appunto che cosa è venuto fuori? Sì, grazie dell'opportunità. Delle 100 aziende italiane più importanti per capitalizzazione di mercato, come ben hai detto tu, a cui noi quest'anno abbiamo richiesto informazione a nome degli investitori istituzionali, hanno riportato 46 aziende okay. In totale. E cosa è venuto fuori di questo rapporto, che è già il quarto o quinto che si pubblica in Italia, è che le aziende italiane sono sempre più consapevoli dell'importanza di misurare e gestire gli impatti ambientali, ma purtroppo quest'anno non abbiamo visto una diminuzione nelle totali emissioni dalle aziende. Ricordiamo che stiamo parlando delle emissioni delle aziende italiane non solo in Italia, ma proprio in tutte le operazioni che hanno. Certo, se un'azienda ha sede in Italia ma poi altre 50 filiali nel mondo, si calcolano tutte le emissioni anche delle altre 50 filiali. Voi lavorate così, no? Esatto, a noi ci interessa, l'investitore ci interessa l'impatto totale delle aziende, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Per cui abbiamo visto che non c'è stata una riduzione delle emissioni, mentre c'è stato un miglioramento nella qualità con cui vengono tracciate queste emissioni, cioè le aziende sanno meglio cosa producono e come, però non sono riuscite molto a ridurre sostanzialmente. Informazioni più chiare, informazioni più precise, più consapevoli, più obiettivi di riduzione di emissioni, ma purtroppo quello che abbiamo visto è che gli obiettivi di riduzione di emissioni sono più concentrati non a lungo termine ma al massimo fino al 2015. Quindi investimenti con un ritorno breve, anche un calo complessivo del 25%, se ricordo bene, sì, all'incirca esatto. Degli investimenti a livello globale. E questo ovviamente si teniamo in considerazione che stiamo parlando di società che si trovano ovviamente a seguito della crisi economica che colpisce l'Italia e in tutto il mondo, è in qualche maniera comprensibile che le aziende ovviamente cercano un ritorno economico anche a breve periodo. Questo è realisticamente un effetto della crisi economica. Ecco, senti Diana, vediamo però al tema principale, perché quello che vorrei cercare di capire è perché degli investitori che alla fine continuano ad avere l'obiettivo di fare utili hanno interesse a capire le politiche di riduzione delle emissioni di queste aziende. Perché sono interessate, vogliono avere queste informazioni? Intanto dobbiamo capire che ci sono due tipi di investitori, ci sono quelli con un approccio più a un periodo più ridotto e quelli più a lungo termine. Quelli più a lungo termine sono sicuramente più sensibili o più sono più attenti a questi aspetti, e quello che vogliono capire è se il management delle aziende hanno capito i rischi e le opportunità che derivano dal cambiamento climatico e che possono avere un impatto diretto o indiretto nella capacità dell'azienda di fare business, quindi nel valore aziendale. Dobbiamo ricordare che se un'azienda non risponde, Maurizio, per un investitore sono due cose: o il management non ha capito i rischi e le opportunità e quindi non è preparato per gestirli, o semplicemente l'azienda non vuole comunicare queste informazioni. Tutti entrambi i casi è una ragione di preoccupazione per gli investitori, perché questo potrebbe presentare o rappresentare dei costi non previsti a futuro ed una perdita di valore del loro portfolio di investimento. Quindi noi come CDP, il nostro messaggio alle aziende è: risponde almeno a quello di cui tu hai informazione, perché è importante dimostrare la disponibilità ad essere trasparenti in questi aspetti. Grazie Diana Guzman, ci fermiamo ma solo per il momento, domani riprendiamo per cercare di capire quali sono gli investitori finanziari più attenti a quelle che sono, diciamo così, le prestazioni ambientali delle grandi imprese di tutto il mondo. A domani.